si può fare. Cronache da un paese migliore. Si può fare. Di Alessio Maurizi. Buongiorno, buona domenica, ben ritrovati cari ascoltatori. L'appuntamento di mezzogiorno con l'altra cronaca su Radio 24, quella dove i protagonisti sono gli italiani con le loro piccole e grandi storie virtuose che ci tirano sul morale, insomma ci insegnano che ce la possiamo fare, si può fare. E tra l'altro noi aspettiamo le vostre notizie, le vostre buone notizie della settimana sulla pagina Facebook del programma, lo ricordiamo ogni volta, si può fare, trattino Radio 24. E da questa settimana cominciamo a mandare in onda, a raccontare le storie che voi ci segnalate, ci proponete proprio attraverso i canali, oltre alla pagina Facebook si può fare @radio24.it. E poi c'è anche la nostra segreteria telefonica 828 12 12, la vostra ricetta per salvare l'Italia in un minuto. Notizie come questa: siamo ad Arezzo, olivi in comodato gratuito, ce ne sono 2400, via al bando per prendersene cura. Un bando messo a segno appunto dal comune di Arezzo per conferire 40 lotti di terreno coltivati ad oliveto, ciascuno con un numero medio di 60 olivi, ubicati, per chi è della zona, San Cornelio, San Giuliano, Olmo, Sitorni, Policiano, Macagnolo e Colle del Pionta. Quindi insomma aderite cari cittadini di Arezzo che avete il pollice verde, fate domanda, c'è tempo fino al 20 novembre per mandare le vostre domande all'ufficio protocollo del comune di Arezzo per avere incomodato d'uso gratuito questi olivi. Si può fare l'olio per esempio, oppure insomma si può passare il sabato e la domenica in un modo diverso e non si spende nulla perché il comodato appunto è gratuito. La prossima notizia viene da Napoli, ci avviciniamo al Natale, sapete tutti quei mercatini di artigianato, ecco la notizia, l'iniziativa del comune di Napoli è questa: al via i corner per i giovani artisti, inaugurazione a Bagnoli un paio di settimane fa, spazi a disposizione dei giovani dai 18 anni in su di qualsiasi nazionalità per l'esposizione e la vendita dei prodotti frutti del proprio ingegno a carattere creativo. Insomma, anche in questo caso, cari amici artigiani della campagna di Napoli e dintorno, fatevi avanti, vi daranno uno spazio di un metro per due, se non ricordo male, dove potete stare per 60 giorni fino alla fine di dicembre a mettere in vendita i propri, le vostre opere di artigianato. La prossima notizia riguarda Roma, la leggiamo così, sulla buona fede. Campo dei Fiori, hostess e steward per educare alla movida sicura. La sperimentazione del progetto, qualche giorno fa con il sindaco Alemanno, distribuiti alcol test, usa e getta, materiale informativo per sensibilizzare i giovani al bere responsabile, un'iniziativa che secondo il comune si estenderà ad altre zone della capitale a partire dal gennaio del 2013. Capisco la buona volontà di evitare situazioni spiacevoli nelle zone dove si concentrano i bar nelle città, tra chi ci vive e chi ci va per divertirsi. Però insomma, ve lo immaginate, siete lì una sera belli tranquilli che state bevendo una birra a Campo dei Fiori, arrivano gli hostess e gli steward a sensibilizzarvi sul bere responsabile. Io non so quale potrebbe essere la reazione, non forse di grande accoglienza, ma insomma staremo a vedere se invece questa iniziativa che viene da Roma avrà successo. Qualche giorno fa abbiamo parlato con Federica Marelli del perché la scienza ci può far bene in occasione del Festival della Scienza. Sentite cosa ci ha lasciato in segreteria telefonica all'800 28 12 12 qualche giorno fa un ascoltatore. Vorrei far presente che questi oroscopanti, questi signori che si dedicano di leggere il futuro, non so, leggono le stelle, l'animaccia loro, di smetterla di trasmetterla in televisioni serie o perlomeno in tutte le televisioni, comprese la Rai, il Mediaset e la 7, perché veramente è un obbrobrio. Grazie. Lasciate anche voi un messaggio alla segreteria telefonica di Radio 24 al numero 800 28 12 12. La vostra ricetta per salvare l'Italia in un minuto. Hai visto la luce? La banda! Hai visto la luce? Quale luce? Lui ha visto la luce! Sì! Sì! Ho visto la luce! E oggi partiamo proprio da qua, da chi ha visto la luce. La luce può essere in fondo al tunnel. Trovare un lavoro in questi tempi difficili di crisi. La crisi può aiutare a trovare nuovi lavori. Lavoro non c'è, me lo invento, l'appuntamento che vi stiamo raccontando da qualche settimana a questa parte. Però può anche essere che invece l'idea nasca da lontano. È il caso di Maria Livia Brunelli, gallerista di Ferrara. Buongiorno, è qua con noi. Buongiorno. La sua luce è stata quella di fare una galleria, ma in casa propria. Un'idea un po' diversa dal solito, un po' originale, che nasce però da lontano. È già qualche anno che lei sta sperimentando questa cosa. Prima di tutto, lei dove abita? In un castello meraviglioso? No. Abito a Ferrara, sì, in un palazzo rinascimentale, che è molto bello, di fronte al castello Estense. Ma la fortuna è stata che è proprio di fianco al Palazzo dei Diamanti. Beh, quindi già è una cosa non da tutti avere un palazzo rinascimentale e di fronte ad un monumento così importante in una città come Ferrara, tra l'altro, aggiungiamo. Però, insomma, adesso vedremo, poi lei ci racconterà come nasce e come funziona questa idea. Può anche darsi che qualcun altro, che ha una casa meno di valore, ma o con spazio o altrettanto bella, può prendere così, diciamo, a spunto la sua idea. Come nasce questa idea di esporre delle opere in casa propria? Sì, beh, intanto è poi un appartamento, non è un palazzo intero, perché non abbiamo poi tanti fondi come può sembrare. E proprio per questo, appunto, dopo aver studiato a Bologna e a Roma, io ho pensato di diventarmi un lavoro, perché facevo la curatrice, lavoravo per i musei, ma mi sarebbe piaciuto rappresentare i miei artisti in uno spazio autonomo. E così, avendo appunto questa casa, ho pensato di sfruttare, diciamo, questa possibilità creando una casa galleria, un home gallery, come ce ne sono tante all'estero. Avendo poi la fortuna di avere il Palazzo dei Diamanti vicino, ho pensato di sfruttare anche le mie capacità curatoriali inventandomi delle mostre a tema collegate a quelle di Palazzo dei Diamanti. Quindi ogni volta che a Palazzo dei Diamanti c'è una mostra di un artista storico, io cerco un artista contemporaneo, internazionale, che possa lavorare sul tema dell'artista esposto a Palazzo dei Diamanti. Ad esempio, a Palazzo dei Diamanti c'è Morandi, io cerco un artista che lavori sul tema della natura morta, interpretandolo in chiave attuale. Adesso poi ci dirà, soprattutto la cosa interessante è se riesce a camparci con questa attività. Nel frattempo diamo qualche riferimento per chi fosse interessato, come si arriva da voi. Allora, è molto facile. Se arriva a Ferrara, di fronte al Castello Estense c'è Corso Ercole d'Este, che porta a Palazzo dei Diamanti. Rispetto al castello è il secondo palazzo sulla sinistra, quindi è facile da raggiungere. E poi Ferrara è una città bellissima da visitare, sì. Quindi si può unire la visita alla vostra casa galleria. Adesso facciamo una pausa per il traffico, poi Maria Livia Brunelli ci svela se con questa attività di gallerista in casa propria riesce anche a camparci e come. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Di nuovo in diretta con Maria Livia Brunelli, gallerista in casa propria a Ferrara, un'attività che, come avete sentito, nasce da un'esperienza passata, ma che insomma è stata messa alla prova degli anni e funziona. Ma ci si riesce anche, Maria Livia, a guadagnare qualcosa da una roba del genere? Allora, è un lungo e lento seminare, perché ovviamente avere collezionisti non è facile, soprattutto in una città come Ferrara, che ha il brand di città d'arte ma non ha mai avuto gallerie d'arte. Noi siamo un'associazione no profit ma con partita IVA, quindi diciamo quello che guadagniamo lo dobbiamo poi reinvestire. Comunque, diciamo, adesso per la crisi che c'è le cose vanno bene, anche perché abbiamo circa 300 persone ogni inaugurazione, quindi un numero altissimo. Facciamo anche molta educazione all'arte, facciamo dei corsi, quindi diciamo sì, si può anche guadagnare. Insomma, basterebbe mettere un piccolo ticket di ingresso, magari, oppure mettersi a vendere il caffè, 300 persone, già si comincia a parlare di guadagni. Abbiamo le tessere associative, sì. Quindi con quello, insomma, come tutte le associazioni no profit, si riesce comunque ad avere un utile che poi permette di pagare le spese e anche appunto poi avere un piccolo guadagno. Sì, ma non volevo dare sicuramente lezioni di business, perché anzi il business lo fate voi, però siamo noi qua anzi a imparare. A proposito di questo, 2 giorni fa si sono tenuti gli Stati Generali della Cultura a Roma, è intervenuto anche il presidente Napolitano, sì. E adesso va molto di moda domandarsi, mentre prima si diceva con la cultura non si mangia, ninja, lo disse anche il ministro Tremonti, sì, esatto. Secondo me sbagliando clamorosamente, però lei che cosa si sente di dire dall'alto della sua esperienza, che con la cultura ci mangicchia, diciamo così, a chi invece continua a dire che no, con la cultura non si mangia, bisogna lasciar perdere? Lei no, cosa dice? No, non è vero, anzi, guardi, basta leggere gli articoli di Pierluigi Sacco su Sole 24 Ore ogni domenica, e è una cosa appunto assolutamente la cultura su cui l'Italia e l'Europa dovrebbe assolutamente investire. Adesso si spera che anche il governo lo capisca. Tra l'altro noi quando inauguriamo facciamo sempre un finger food ispirato alle opere esposte, quindi almeno da noi si mangia. È un consiglio per chiudere a chi si fosse ispirato sentendo questa intervista e volesse fare, magari non a Ferrara, se no vi fa concorrenza, certo, altrove, una cosa del genere, da dove si parte? Ah, niente, si parte da una gran passione, e se volete io ospito anche saggisti, quindi si può imparare, io sono ben felice che questa esperienza si allarghi, come all'estero ce ne sono tante, ho anche una bimba neonata, anche lei si è adattata benissimo alla Casa Galleria, anche mio marito, anche se raffreddato ed è a letto, può anche illustrare dal letto, come è già capitato, le opere. Quindi vuole intervenire nel dibattito anche da letto. Insomma, esatto. Tra l'altro è anche una scelta di vivere la casa e la propria vita in una maniera originale, diversa. E ci si mette in gioco in prima persona. Grazie intanto. Prego. Maria Livia Brunelli, gallerista a casa propria di Ferrara, una bella storia, un mestiere inventato per reagire a questi tempi di crisi, un modo di vivere anche diverso, una storia che adesso andiamo a raccontare anche a Bolzano. Aggiungi un posto a tavola che c'è un amico in più, se sposti un po' la seggiola stai comodo anche tu. Gli amici a questo servono, a stare in compagnia. Sorridi al nuovo ospite, non farlo andare via. Dividi il companatico, raddoppia la. Dicevamo a Bolzano per una storia anche questa di una socialità vissuta in modo un po' diverso, stavolta però non si vendono quadri dentro casa, ma si vendono storie, nessuno le paga, le storie si regalano attorno ad un tavolo all'aria aperta. È accaduto a Bolzano, un'esperienza che forse verrà anche replicata. Salutiamo Linda Martini, coordinatrice del progetto Storie in Tavola, da parte dell'associazione Vispa Teresa. Buongiorno Linda. Buongiorno. Un esperimento fatto a Bolzano qualche giorno fa, non so esattamente quando, ma all'aria aperta, però non è più stagione, o sì? No, infatti abbiamo rischiato adesso. Parecchio, diciamo. Avete l'evento... rischiato i feriti. Sì, è avvenuto il 20 ottobre e ce la siamo un po' giocata, diciamo. Tra l'altro Bolzano non è neanche che uno dice siamo a Cosenza, dove sicuramente fa caldo, no? No, certo, fa già freschino. Solo che la piazza di quartiere ci sembrava il luogo ideale per proporre e organizzare un evento simile, e quindi abbiamo rischiato e diciamo che il tempo è stato dalla nostra parte, ci ha regalato una giornata di sole che ha contribuito a, diciamo, al successo dell'iniziativa. Avevate l'uomo in più che giocava con voi, il bel tempo che non guasta mai, anzi noi abbiamo voluto usare la celebre canzone musical di Johnny Dorelli, Aggiungi un posto a tavola, perché sembrava fatta apposta per raccontare di questo progetto. Ci dica però come nasce, di che cosa stiamo parlando. Noi abbiamo detto persone che si trovano intorno a un tavolo e si raccontano storie. Sì, nasce diciamo da un bando comunale al quale noi come associazione, come progetto di sviluppo di comunità di quartiere abbiamo partecipato, ed è stato un modo per avere l'occasione di lavorare sulle storie di vita. Come associazione ci avevamo già lavorato e nello specifico abbiamo raccolto dei piccoli episodi di volontariato, perché il bando era un bando sul volontariato. E nella raccolta di questi piccoli episodi di volontariato naturalmente siamo entrati nelle storie degli altri. abbiamo creato un piccolo gruppo tramite anche un piccolo corso di formazione, chiamiamolo, e durante questo corso abbiamo preparato il gruppo a raccogliere quindi storie e a fare delle interviste. E insomma, naturalmente... sì. Che tipo di storie sono emerse? Anche questo è importante raccontarlo. Io però prima le vorrei chiedere questo, perché insomma la vostra storia ci insegna che si può fare anche questo, si può vivere una socialità in un modo che sembra perduto, un po' antico, quando ci si trovava sotto l'albero a raccontare storie. Adesso tutto questo non accade più nemmeno in campagna, figuriamoci, ahimè, nelle città. Come reagiscono le persone a questa chiamata che può sembrare molto originale e per certi aspetti anacronistica? Ma devo dire che le persone hanno risposto bene, perché appunto lo scopo era proprio quello di riunire attorno ad un tavolo la comunità e offrire alla comunità l'opportunità di ascoltare la propria storia raccolta dalla comunità stessa, quindi dalle persone che hanno partecipato al progetto, e devo dire che ha funzionato. Si parte, ho capito, da storie di persone che si occupano anche del volontariato, impegnate, sì, quindi in prima persona, e quindi già si parte da un nucleo di persone che sono già rivolte verso gli altri in maniera positiva. Che tipo di storie sono venute fuori per raccontare una Bolzano magari diversa da quella conosciuta fino ad oggi? Ma sono emerse appunto piccoli episodi di volontariato all'interno di un quartiere, perché il progetto era concentrato in un quartiere in particolare, e con piccoli episodi intendo episodi di volontariato quotidiano e non formale, quindi anche quello formale, non lo so, fare il volontario in qualche associazione piuttosto che il pompiere, le classiche realtà di volontariato, ma proprio anche piccoli episodi di vicinato, di gentilezza nei confronti di una persona che abita a fianco, e poi, come diceva lei, proprio a partire da un atto di volontariato che è stato quello dei nostri volontari di andare a raccogliere queste storie. Un progetto magari esportabile, ci state pensando? È possibile, magari quando ci sarà bel tempo? Sì, no, per noi è stata un'esperienza molto importante e sicuramente vorremmo ripeterla, anche nell'ottica di svilupparla nel teatro di comunità, perché poi le, sì, storie sono state rappresentate, diciamo, durante questo pranzo, quindi per un teatro di comunità che ha la capacità di sviluppare un maggior senso di appartenenza tra le persone, quindi questo è il nostro obiettivo, diciamo. C'è anche il sito Vispa Teresa per chi fosse interessato ad approfondire. Grazie intanto a Linda Martini da Bolzano per questa storie in tavola in questa città. Benissimo, si può fare però anche nel mondo, e vediamo questa settimana qual è la notizia più bella che siamo andati a scovare. And the winner is... Il premio questa settimana va a Lagos, in Nigeria. Lo recapitiamo direttamente nella sede del Maker Fair Africa, la fiera per piccoli inventori, dove quattro ragazze tra i 14 e i 15 anni hanno sbalordito la giuria presentando il prototipo di un'invenzione che potrebbe cambiare il mondo. Tutti i grandi saggi ci hanno sempre detto che dentro di noi c'è una grande energia. Ebbene, loro li hanno presi alla lettera e hanno realizzato il primo generatore elettrico al mondo, alimentato con la pipì. Grazie al loro congegno, un litro di urina è in grado di fornire ben 6 ore di elettricità. La macchina produce energia sfruttando l'idrogeno contenuto nell'urina, lo isola, lo filtra, lo purifica e lo utilizza per attivare un generatore. Il congegno funziona, ma è da perfezionare. Si tratta infatti di un'idea così esplosiva che alle volte salta letteralmente in aria. Tuttavia, al netto dello sviluppo, questa rimane un'invenzione rivoluzionaria, in grado di garantire energia pulita a un costo bassissimo e di trasformare ciascuno di noi in una batteria che cammina. La storia di queste ragazze nigeriane dimostra che la scintilla del genio può accendersi a qualunque età e a qualunque latitudine. Se diamo ai giovani una possibilità, forse un mondo migliore si può fare. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Buongiorno e ben ritrovati cari ascoltatori, Cronache da un paese migliore. Oggi siamo partiti da chi ha visto la luce in fondo al tunnel, il tunnel della crisi economica. Vedere la luce può essere anche trovare un lavoro, inventarsi un lavoro quando non c'è. È la storia della gallerista in casa propria di Ferrara, Maria Livia Brunelli, e questo potrebbe essere un suggerimento anche per chi magari nel mondo dell'arte ha qualcosa da dire a una bella casa, e perché no inventarsi una galleria in casa propria per fare così un'attività commerciale. Poi siamo stati a Bolzano, Storie in Tavola, l'iniziativa che ha visto protagonisti i cittadini di questa città riuniti intorno a un tavolo a raccontarsi storie, come si faceva una volta, un modo di vivere la socialità, appunto come si faceva una volta. Si può fare anche questa, una notizia che veniva da Bolzano. Noi aspettiamo in settimana le vostre segnalazioni sul profilo Facebook del programma, si può fare @radio24, per i più timidi c'è anche la mail, si può fare @radio24.it. Adesso andiamo a Parma. Ho sentito sciocchino my town, urla di furore my town, di generazioni town, senza più passato, di neoprimitivi rozzi cibernetici, signori degli anelli, orgoglio dei manicomi. Shocking my town, shocking my town. Velvet underground. Cosa si può fare contro il consumo del suolo, contro la cementificazione del suolo, un problema ormai che sta andando a valanga negli ultimi anni nel nostro paese? Cosa si può fare per evitare scenari da shock nelle nostre città? Una risposta arriva da Parma e ce ne parla Fabrizio Savani, che è consigliere comunale di questa città, che qualche giorno fa, buongiorno intanto. Buongiorno, buongiorno a tutti. Che qualche giorno fa ha presentato una mozione proprio per dire stop al consumo di suolo, basta con la cementificazione, bisogna cambiare strada rispetto a quello che si è fatto negli ultimi anni. Savani, una bella iniziativa, ci dica come nasce e come è stata accolta in Consiglio Comunale. Ma dunque, innanzitutto devo dire che il bene prezioso, un bene comune che è il territorio, quindi l'ambiente in generale, deve essere preservato da partiti e da una politica che deve essere trasversale, quindi a ogni colore. C'è da dire che a Parma è stata quindi la mia mozione approvata alla unanimità, quindi è una dichiarazione di intenti che praticamente sposa tutti i partiti politici e i movimenti come il nostro. L'esigenza nasce dal fatto che la cementificazione, che per molti, anche qua a Parma, sembrava una delle risposte migliori al problema del paese, ha invece prodotto questo scempio ambientale che è a tutti noto. Parma negli ultimi 10-15 anni è stata deturpata nell'ambiente. Dicevo anche la volta scorsa che nel giro di un biennio, pensiamo al 2005-2007, si è costruito qualcosa come 160 campi da calcio, che è una cifra che nell'immaginario, ecco, rende bene lo scenario. Ecco, ma quindi proprio da Parma parte questa iniziativa, proprio perché Parma, secondo l'ultimo rapporto di Lega Ambiente, era maglia nera nella classifica del consumo del suolo negli ultimi anni, tanti progetti che sono stati approvati perché si pensava che lo sviluppo del cemento fosse anche sviluppo dell'economia, in parte è stato anche così, però non ci si può fermare a questo, perché poi il territorio finirà e allora ci domanderemo cosa fare per lo sviluppo dell'economia. Però lei, Savani, parlava di una dichiarazione di intenti del Consiglio Comunale di Parma su questa questione, però cosa si può fare di concreto? Perché c'è un problema, i diritti acquisiti di chi in questi anni ha visto approvare piani per costruire nuovi volumi di cemento, e lì che cosa si può fare? Sì, ahimè, purtroppo noi come Consiglio Comunale, e quindi il mio Movimento 5 Stelle, ha la maggioranza in comune e deve ingoiare a volte delle pillole amare, perché dobbiamo approvare delle lottizzazioni in termine generico, quindi tecnicamente si chiamano dei PUA, che praticamente è all'ultima firma, quindi possiamo davvero incidere poco con le linee del nostro movimento. Ciò nonostante, quando si tratta di diritti acquisiti, appunto, dicevo, si può fare poco. Però possiamo innanzitutto con questa mozione andare a individuare quelle che sono gli immobili sfitti, ad esempio, e quelli che sono tutte le lottizzazioni in essere e in corso. E dopodiché possiamo cercare di coinvolgere tutti i cittadini per andare a individuare quelli che possono essere degli strumenti urbanistici che possono dare effettivamente una nuova visione politica alla salvaguardia dell'ambiente. Facendo un passo in più a livello nazionale, un passo più in là, con una premessa, il Movimento 5 Stelle, a cui lei appartiene, Grillo, e invece il governo Monti tecnici sono due realtà che sembrano più agli antipodi di così non potrebbero essere. Eppure su questo tema, per esempio, il ministro dell'agricoltura Catania qualche tempo fa ha presentato un disegno di legge contro la cementificazione per la salvaguardia del paesaggio. È possibile che su un tema del genere si crei una maggioranza super trasversale in futuro o anche nel presente, che vada da Grillo a Monti, per esempio? Ma guardi, il territorio è un bene comune che riguarda tutti noi, come dicevo prima, indipendentemente dalla connotazione politica. Questa è la vera politica, questa è la gestione della polis, quindi i beni collettivi, patrimonio dell'umanità, patrimonio dell'ambiente, ed è quello che lasceremo ai nostri figli. Quindi è giunto il momento, secondo me, di fare proprio una campagna comune. Quindi ogni cittadino, ogni movimento deve presidiare il territorio, proprio in maniera capillare, ma anche e soprattutto a livello locale. E dobbiamo farci carico di questa enorme responsabilità. Cioè, noi non siamo contro le imprese edili, noi siamo per la riqualificazione del patrimonio edilizio privato e pubblico. Quindi investire magari dal punto di vista economico come volano nella riqualifica e non nella costruzione di nuovi volumi di edilizia. In 30 secondi per chiudere, poi su questo argomento naturalmente torneremo. Che cosa, quale impegno si può, così per tranquillizzare i cittadini su questo tema, prendere? Cioè che non si daranno altre aree per costruire, per esempio nel comune di Parma si individueranno delle zone dove non si può più costruire, oltre questa mozione che avete approvato all'unanimità, Savani. Allora, ripeto, fatto salvo i diritti acquisiti, ci sono poi dopo dei piani regolatori, cioè tutta una serie di strumenti urbanistici che devono essere attentamente riviste attraverso delle discussioni con incontri a classe della cittadinanza, una decisione collettiva di progettare proprio appunto questi strumenti urbanistici che devono essere privi di ulteriore area di espansione, di nuove costruzioni, e quindi attenti a incentivare sia il recupero sia la riconversione del patrimonio edilizio esistente, pubblico ma anche privato. E allora mi raccomando, fatelo questo lavoro di coinvolgimento anche della cittadinanza per arrivare a questi nuovi strumenti che blocchino il consumo di suolo, che insomma quando poi sarà finito allora sarà troppo tardi. Intanto grazie Fabrizio Savani, consigliere comunale di Parma. Una mozione su questo è stata approvata qualche giorno fa, è un segnale, staremo a vedere. A presto. Grazie a voi e buona giornata a tutti. Adesso facciamo una pausa per il traffico, rientriamo tra pochissimo. Si può fare. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Studentessa universitaria, triste e solitaria, nella tua stanzetta umida. Ripassi bene la lezione di filosofia e la mattina sei giochina sulla scrivania e la sera ti ritrovi a fissare il soffitto. I soldi per pagare l'affitto te li manda papà. Ricordi la corriera che passava lenta? lenta, sotto il sole arroventato di Sicilia e fichi d'India che crescevano disordinati ai porti dell'estate. Tu certo le impazzite, le poche case, ripensi a quel profumo dolce di paese, pane caldo, i pomeriggi torridi, la piazza la domenica, il mare sconfinato che si spalancava dal terrazzo della tua camera da letto. Ripensi alle salite in bicicletta per raggiungere il cadavere di una capretta, il tabernacolo della Madonna in cima alla montagna, che emozione, tutte le candele accese di un paese in processione, gocce di sudore sulla fronte, odore di sapone, di marsiglia, di lenzuola fresche per l'estate, gli occhi neri di una donna ferma sulle scale, gli occhi di tua madre, studentessa universitaria, triste solitaria. Questa canzone di Simone Cristicchi, insomma, ci parla un po' del fatto che tutti noi abbiamo un bisogno ancestrale di radici, di campagna, di una vita più naturale di quella che si fa in città. Ebbene, da oggi, anzi da qualche giorno fa, gli studenti universitari del Politecnico di Milano potranno anche smettere di sognare questa loro vita precedente. Basterà andare nell'orto del Politecnico, perché è nato l'orto conviviale proprio al Politecnico di Milano. Ne parliamo con Giulia Simeone, docente di design dei servizi proprio all'Università Politecnico di Milano. Buongiorno Giulia. Buongiorno. Uno fa tanto per mandare i figli all'università a studiare e poi si ritrova nell'orto. Sì, è meglio che tornino a zappare. Anche questo potrebbe essere un messaggio non del tutto positivo, però invece no. Del positivo c'è. Sì, perché, assolutamente. Perché? Ci spieghi questa apparente contraddizione. A cosa serve l'orto? Poi ci spiegherà anche come nasce questo progetto. A cosa serve l'orto nel Politecnico di Milano? Allora, l'orto del Politecnico di Milano nasce intanto per far incontrare il mondo accademico con quello della Bovisa, che è il quartiere dove il nostro campus è un po' atterrato come un'astronave più di 10 anni fa, a fine degli anni 90, diciamo, dove prima c'era una fabbrica storica di Milano, la Ceretti Tanfani, in cui lavoravano molti dei residenti, la maggior parte dei residenti del quartiere. Insomma, da quando è arrivato questo campus c'è stato questo distaccamento sia un po' fisico, anche poi emotivo, da parte delle persone che vivono nel quartiere e insomma si sono visti arrivare questo blocco di cemento. Invece è un modo per recuperare dei legami, per aprire le porte dell'università al quartiere. Assolutamente. Il progetto del Norto nasce proprio per, essendo l'università pubblica, quindi uno spazio pubblico, nasce per restituire questo spazio pubblico alle persone che vivono nel quartiere. Ovviamente coinvolgiamo gli studenti, il personale che lavora in università, però la maggior parte della comunità che andrà a costituire poi questo orto conviviale proviene proprio dal quartiere. Abbiamo scoperto che storicamente c'erano già orti gestiti da queste persone. Cosa trova adesso chi, per esempio dal quartiere della Bovisa, fosse interessato, entra e cerca questo orto del Politecnico? Che cosa trova adesso? Allora, adesso trova un work in progress, nel senso che dopo un anno di gestazione e di momenti di quello che chiamiamo noi co-design, ecco, condivisi appunto con le persone interessate, sia del quartiere che come vorresti che fosse, eccetera. Esatto, l'abbiamo progettato un po' insieme, adesso finalmente, insomma... Vi siete ispirati ad Harvard, ho letto. Siamo in contatto con Harvard, poi Harvard ha una natura un po' diversa, nel senso che è chiuso all'interno del campus, serve la mensa dell'università, eccetera. Noi invece ci siamo aperti al quartiere, e i prodotti verranno raccolti dalle persone che coltivano l'orto. A proposito di questo, perché io mi sono chiesto, adesso l'orto conviviale, gli studenti che passano, la gente del vicinato, tutti interessati eccetera, ma chi si occupa poi dell'orto? Non è che alla fine ognuno va per la sua strada, c'è un responsabile, voglio dire, o veramente tutto è gestito così in condivisione? No, è assolutamente tutto gestito in condivisione, ma da una comunità di persone precise. Nel senso che noi ci immaginiamo circa una trentina di persone, appunto, tra chi gravita intorno all'università e chi invece vive in Bovisa, che lavorano nell'orto e quindi hanno anche diritto di raccogliere i prodotti per mangiare. Quindi c'è l'incentivo a venire, perché poi si può anche raccogliere qualcosa, giustamente. Sì, assolutamente. Da quest'orto, certo. Però in realtà non è tanto, raccogliere poi è il momento, insomma, bello di gratificazione delle persone, eccetera. Quello che più ci interessa però è creare un po' uno spazio di interazione, uno spazio aperto a tutti. Di fatto al momento nell'orto non ci sono confini, non ci sono barriere, non ci sono cancelli. Stiamo sperimentando, perché comunque un esperimento sia un po', diciamo, sociale, ma anche poi come dire, di layout da parte del punto di vista anche del design, degli spazi, eccetera. Proviamo a lasciarlo aperto, vediamo come va, vediamo se la gente lo rispetta. Ecco, perché poi la risposta delle persone è interessante, mi incuriosisce, perché è chiaro l'iniziativa dell'orto conviviale dentro il Politecnico, per tutto quello che lei ha spiegato, e si parla molto di un ritorno alla campagna. L'agricoltura è uno dei pochi settori in crescita a livello economico, e questa è un'altra buona notizia, però poi in una città come Milano qual è la reazione vera delle persone che avete coinvolto in questo progetto? C'è davvero bisogno di questo tipo di orto, di attività, di convivialità? Sono affamate di questo tipo di iniziative. Affamate anche degli ortaggi? No, adesso scherzando. No, gioco con le parole, però è vero. Nel senso c'è bisogno, che... insomma. Sì, assolutamente, c'è bisogno, non è a caso che tra l'altro c'è una rete che è nata da un po' di tempo, che si chiama la rete delle libere rappe metropolitane, di cui noi siamo adesso entrati a far parte, ed è appunto una rete di orti che stanno nascendo, che già esistevano a Milano, insomma, che vedono coinvolte tantissime persone, ed è una realtà in crescita anche quella. E vabbè, insomma, abbiamo raccontato anche questa storia. Si può fare l'orto dentro l'università, il Politecnico di Milano. Grazie Giulia per essere stata con noi, docente di design dei servizi al Politecnico. E insomma, oggi ci fermiamo qua. Io ringrazio Franco Piantanida in redazione, Andrea Piana che ha scritto insieme a me il programma, Matteo Comes in regia quest'oggi. Ci risentiamo sabato prossimo. Vi lasciamo alla nostra segreteria telefonica. Da Alessio Maurizio l'auguro di una buona settimana. La mia ricetta sarebbe quella, da fare un'efficiente raccolta differenziata e creando posti di lavoro. Secondo me si potrebbero creare in tutta Italia almeno 4 milioni di posti di lavoro. A San Francisco, che a metà la città in se stessa, di abitanti di Milano, 600.000, hanno creato 43.000 posti di lavoro facendo un'efficiente raccolta differenziata, perché c'è uno spreco enorme. Oltretutto qui a Milano l'AMSA, i cartoni che vengono accatastati a chi fa questa raccolta, loro li prendono e li mettono nel nero buttandoli, quindi bruciandoli. Questo non va bene. Quindi, per creare posti di lavoro in Italia e non parlare a casaccio, soltanto si possono fare con la raccolta efficientissima o efficiente di raccolta differenziata. Lasciate anche voi un messaggio alla segreteria telefonica di Radio 24 al numero 828 12 12. La vostra ricetta per salvare l'Italia in un minuto. Sì!